Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure potete andare sul sito internet della radio ondarossa.info, sulla home page c'è l'opzione sostieni con la modalità per la modalità PayPal. Allora, tra qualche istante visionari per quanto riguarda il cinema su questa emittente ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, che sulla pagina Facebook di Visionari. Mentre per comunicare l'indirizzo di posta elettronica comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E sulla scaletta troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 27 febbraio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi il link per riascoltare la puntata precedente ma anche quelle del 2013 e del 2014 fino a quest'oggi. Ecco noi Eros Achiardi, regista del documentario Un senso diverso. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, intanto un documentario che ha partecipato a diversi festival ottenendo anche dei riconoscimenti, è giusto Eros? Sì, ha partecipato al Genova Film Festival, poi a diversi festival italiani internazionali. E ultimamente l'ultimo premio che ha vinto, che è stato il più piacevole, la più bella sorpresa, è stato il premio del pubblico all'Asti Film Festival questo dicembre. No, è stato insomma sorprendente vincere il premio del pubblico, che è un documentario anche piuttosto impegnativo e insomma può essere anche abbastanza traumatico in certe parti per uno spettatore. E l'accoglienza Asti è stata insomma veramente una bella sorpresa. Ecco, entrando nel merito del documentario, cos'è Un senso diverso, Eros? Un senso diverso, il documentario parla del mondo dei sordociechi e dei plurimminorati sensoriali che sono ospiti della sede di Osimo della Lega del Filo d'Oro. Quindi racconta con uno sguardo che vuole essere molto interno a quel mondo, quelle che sono le dinamiche di apprendimento, le dinamiche relazionali di persone che sono appunto o fisse come ospite del Lega del Filo d'Oro o che lo frequentano per avere un aiuto ai loro problemi. E ecco, abbiamo chiamato Un senso diverso perché la nostra intenzione era quella di fare in modo che le dinamiche di questo mondo non fossero raccontate con pietismo o facendo sentire soltanto il limite di queste persone rispetto alla normalità, ma per individuare appunto un senso diverso anche nello stare al mondo in quelle condizioni. Il senso diverso è la possibilità di comunicare, la possibilità di sviluppare una personalità e una vitalità piena pur avendo quelli che appunto noi consideriamo limiti e privazioni. Perché noi abbiamo conosciuto questo mondo quasi per caso, perché abbiamo partecipato a un festival di spot, cioè di video aziendali e spot, che si chiama Movie & Co. E anziché associare noi, dico io e la coregista Barbara Maffeo, nel momento in cui abbiamo partecipato a questo festival, anziché associarci a un'azienda più convenzionale, ci hanno detto che avremmo dovuto fare un lavoro per la Lega del Filo d'Oro, che conoscevamo ma molto superficialmente, e nel momento in cui poi abbiamo conosciuto, siamo entrati in questo mondo, abbiamo visto con piacevole sorpresa anche la vitalità all'interno di questo mondo, abbiamo detto dobbiamo fare un documentario per riportare quello che è un'esperienza appunto non traumatica ma molto vitale che ci ha restituito questo mondo. E perché vitale? Perché c'è un'attenzione al singolo essere umano, un'attenzione a cogliere le potenzialità nella diversità di ogni singolo essere umano. La cosa sorprendente alle gare Filodoro è che ognuno ha un problema diverso, ognuno ha caratteristiche diverse, e quindi per ognuno viene sviluppato una forma di comunicazione che è molto individuale, che insomma tiene conto del problema, del limite della persona, ma anche della sua potenzialità, della sua capacità di imparare in un certo modo. Che forma? Quindi... Sì, scusa. Vai, continua, stai. Ok. Sì, non è questo, ho concluso. Eros, volevo chiederti che forma avete dato al documentario, come l'avete strutturato? Noi l'abbiamo impostato, voleva essere un documentario a mosaico, ecco, insomma, cioè osservativo e con una serie di personaggi che potessero accompagnarci in un percorso, che potessero restituire un percorso dall'infanzia fino all'età adulta, fino alla piena maturità, ecco, di una persona. Quindi noi l'abbiamo impostato, abbiamo detto vogliamo che ci siano diversi personaggi che si diano come se fosse una staffetta, insomma c'è un cambio poi dall'uno all'altro, e facciamo in modo che con una suddivisione in capitoli del documentario noi possiamo raccontare le varie fasi di sviluppo, le varie fasi della vita nel mondo della Lega del Filodoro. Quindi c'è un primo episodio che si occupa della primavera, della vita, del mondo dei ragazzini, del primo contatto che si riesce a avere ai ragazzini che sono in questo mondo con la realtà, con la percezione dell'altro, fino man mano con i capitoli successivi a raccontare quelle che sono altre età della vita e alla conquista dell'attenzione anche in questo mondo verso l'altro, e quindi anche una forma di solidarietà dell'interno che si sviluppa tra i vari ospiti. Oh, con quante persone siete entrati in relazione e poi in che modo hanno sviluppato i loro sensi? Noi quando ci siamo avvicinati al documentario volevamo capire meglio come si poteva, non avendo insomma i sensi con cui noi principalmente ci relazioniamo al mondo, quindi la vista e l'udito, cioè volevamo veramente capire fino in fondo come si riusciva a non solo a percepire le cose, insomma avere un'immagine mentale e sonora di quello che ci circonda, ma anche riuscire a nominarle e riuscire a comunicare con questo. Quindi noi all'inizio siamo stati spinti da questa necessità di capire come facevano. Mm-hmm. E per farlo quindi noi abbiamo conosciuto, si è stati ad osservare prima di prendere la telecamera in mano quella realtà per diverse settimane. Abbiamo conosciuto i genitori e gli operatori per farci spiegare quello che magari in poco tempo non riuscivamo a cogliere, quindi tutto il processo che c'era dietro quella forma di comunicazione, di apprendimento, e poi quindi abbiamo gli ospiti che abbiamo conosciuto, con cui siamo anche entrati in relazione, imparando anche noi per quello che potevamo fare in poco tempo, quelli che potevano essere i loro codici, anche provando a imparare per esempio un codice che è il Malossi di comunicazione tattile, e quindi per spiegare anche noi stessi quello che stavamo facendo, quindi di persone che abbiamo incontrato come ospiti e come genitori, ecco, una cinquantina, alcune le abbiamo filmate ma non sono rientrate nel documentario, e poi abbiamo scelto alcune situazioni, alcune persone che ci sembrava che potevano essere più emblematiche per costruire insomma il nostro racconto. Una curiosità, qual è il rapporto con le persone care, familiari, ma amici, e poi che tipo di rapporto stabiliscono sia con gli operatori che con gli altri ospiti della struttura? Il rapporto con i genitori che abbiamo osservato è un rapporto complesso, e abbiamo cercato nel documentario, anche nei vari capitoli, di raccontare quello che poteva essere una crescita, un'evoluzione di questo rapporto, nel senso che sinceramente i genitori sono stati molto sinceri a proposito. La prima reazione è il rifiuto, è un senso di ingiustizia, ecco, insomma, cioè capita qualcosa che assolutamente non ti aspettavi l'accettazione di quello che, insomma, che ti è capitato, quindi la relazione con una persona che non è quella che ti aspettavi, è quasi in tutti i casi molto, insomma, traumatica all'inizio. E quindi, soprattutto se la persona si ritrova sola all'inizio, senza avere un riferimento di una struttura, senza avere dei consigli di persone che stanno vicino, ecco, insomma, la prima parte di questa nuova vita che un genitore si trova ad avere con una persona disabile, con gravi problemi, insomma, è una reazione, provoca una reazione di rifiuto. Abbiamo conosciuto poi genitori che in un secondo momento hanno sviluppato, insomma, una forza che neanche si aspettavano nel relazionarsi, fino ad arrivare, e questo abbiamo restituito nel documentario, proprio a una serenità del rapporto, con un rapporto normale con una persona, insomma, con cui finalmente nel tempo è stato possibile relazionarsi e cogliere anche la bellezza di questa relazione. E gli operatori, ecco, quando siamo arrivati per fare il documentario, la cosa che ci ha colpito è che loro ci tenevano a non essere considerati come degli eroi, ecco, insomma, come dei missionari. Gli operatori hanno detto: questo è il nostro lavoro, naturalmente ci vuole una sensibilità, un interesse per le persone per riuscire a fare bene questo lavoro, ma abbiamo degli strumenti, questo è un lavoro e lo facciamo nel modo migliore possibile, non c'è nessuna missione, ecco, non c'è nessun, per fortuna non c'è nessun pietismo che li accompagna. Ci tenevano che fosse restituita questa dimensione, e quello che abbiamo trovato è una dimensione spesso di gioco e fra gli operatori e i ragazzi che stanno, è una relazione anche complessa, cioè fatta di anche screzi, rimproveri e affezioni che poi negli anni, insomma, cioè diventano veramente serie. Quindi, ecco, i rapporti di amicizia fra gli operatori e gli ospiti del Grifiodoro è qualcosa che siamo riusciti, insomma, a osservare, spero anche a riportare nel documentario. I rapporti fra gli ospiti stessi, ecco, diciamo che in un periodo, un primo periodo della vita, sono un po' più difficili, nel senso che l'ospite cerca nell'altro una guida, si affida a qualcuno che possa fargli capire cosa c'è intorno, si affida a una persona che può essere il genitore o l'operatore. Per quello che abbiamo osservato nel corso degli anni, lì è un processo che richiede un po' più tempo rispetto a quello che può succedere nella, tra virgolette, normalità. Nel corso degli anni anche chi ha dei problemi cognitivi di vista, di udito, trova il modo per capire l'altro e anche per fare qualcosa per l'altro. Quindi abbiamo visto che in alcuni casi sono sviluppati dei rapporti anche di amore, di relazione tra gli ospiti dell'Allegra del Filo d'Oro. Fino noi, appunto, nella struttura, come ti dicevo prima, nella struttura del documentario, abbiamo cercato di arrivare poi a un finale in sordina, diciamo in minore, che però restituisse questa sensazione. C'è qualcuno che all'interno dell'Allegra del Filo d'Oro ha attenzione e si occupa poi di tutti gli altri. Senti Eros, in chiusura diamo dei riferimenti internet per chi volesse saperne di più anche in merito ad una visibilità, una distribuzione. Allora, per adesso noi non abbiamo un sito del film, sì, quello non l'abbiamo ancora fatto. Vedere il film, appunto, noi per adesso l'abbiamo distribuito nei festival e l'abbiamo caricato su Vimeo. Adesso che il film ha quasi 2 anni e il suo percorso festivaliero l'ha fatto, vorremmo metterlo in chiaro su Vimeo in modo che sia visibile da tutti. Bene, bene. Quindi il film si chiama Un senso diverso, quindi potrà essere poi visionabile, facilmente visibile online nel giro di un paio di mesi. Eros, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie, grazie a te per l'occasione. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. Eros Acchiardi, regista del documentario Un senso diverso. Cecilia Pagliarini, Pagliarani, scusate, direttrice della terza edizione del Festival Il Gusto della Memoria, che sarà a Roma e a Bracciano il 27 e 28 settembre. Cecilia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a voi. Si è aperto il bando proprio in questi giorni. Cos'è Il Gusto della Memoria, Cecilia? Il Gusto della Memoria è un festival per gli appassionati delle immagini antiche, appassionati che siano registi ma anche semplici spettatori e anche detentori di immagini che vogliono venire a vedere cosa ci si può fare con queste cose abbandonate in cantine e soffitte. Oh, tra l'altro noi nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di sentire l'autore del documentario vincitore, Gli Zoccoli Nuovi, se non sbaglio il titolo. Benissimo, Daniele Fargesu. Sì. È veramente un bel film quello. Allora, come è strutturato il festival, Cecilia? Allora, il festival in questa terza edizione ha due concorsi, uno per gli adulti e uno per gli under 18. Quello per gli under 18 ha come tema Questo sono io, e quindi tutti i partecipanti possono fare delle vere o finte biografie utilizzando almeno il 60% delle immagini, scaricandole dall'archivio nosarchive.com. Sì. Che è un archivio, il nostro archivio di immagini amatoriali dal 1822 al 1984. Okay. Il concorso per adulti è strutturato in tre sezioni: fiction, documentari e advertising, quindi spot pubblicitari della durata di massimo 45 secondi, e ha come tema quello ero quello che non sono più, quindi come tema il cambiamento a livello sociale, che cosa vuol dire cambiare, il senso del cambiamento. Quindi abbiamo aggiunto un po' di tag al tema, che può essere ero carnivore non lo sono più, ero razzista non lo sono più, ero credulone non lo sono più, ero ossessiva non lo sono più. Tutte queste cose le potete trovare sul nostro canale YouTube, dove sono gli spot che spiegano tutto, e anche sul website, sul link che trovate sempre come link su YouTube. Mm-hmm. Cecilia, terza edizione, come è nato tutto? Tutto è nato perché prima del festival è nato l'archivio, e l'archivio è nato perché come regista ho fatto dei film in Francia con le televisioni francesi, e in uno particolarmente la produzione spese una cifra spropositata per acquistare delle immagini dall'archivio nazionale, ma quello stesso spettacolo l'avevamo ritrovato di un signore che era spettatore a colori in un 8 mm, e questo signore non ebbe nessun soldo dalla produzione, e io da questa cosa rimasi un po' scioccata, perché ho detto come, abbiamo pagato una cifra spropositata per un archivio nazionale in bianco e nero e quella a colore non l'abbiamo pagato? E allora mi è venuta l'idea, insieme al mio compagno e collaboratore Manuel Kleidman, di fondare un archivio che restituisse, diciamo, importanza ma anche insomma economica agli autori dei film amatoriali. Mm-hmm. Ecco, mi dicevi, se non sbaglio, sono 60 anni di storia, termina questo archivio, arriva fino alla metà degli anni 80. Dove vi siete indirizzati per recuperare questa mole di materiale, e quali sono le strutture e i singoli che hanno aderito a questa iniziativa? All'inizio abbiamo cominciato con queste famiglie che avevamo contattato per questo film. Sì. E poi con gli amici e le famiglie intorno a me. Io faccio la montatrice, ho scelto di fare la montatrice che ero molto piccola, avevo 13 anni, avevo già deciso, quindi diciamo che mi sono portata un po' appresso tutte quelle conoscenze che avevo avuto nella vita, e chiedendo in giro eravamo già partiti con 3.000 pellicole. E poi piano piano le famiglie hanno aderito da sole, perché bisogna spiegare una cosa: il nostro archivio ha una particolarità. Se tu adesso hai una pellicola a casa, questa pellicola è interessante, ce la porti, noi la scannerizziamo e la mettiamo le licenze in vendita. per fare documentari per le grandi broadcaster. Quando queste esigenze si vendono, a te ti arriva il 50% dei proventi, e sono somme importanti, e soprattutto è alla luce del giorno, non ci sono liberatori dicendo per questo programma lo uso gratis, per questo no, per questo era remunerato. Quindi diciamo le famiglie aderiscono da sole, perché oltre a rivedere i propri ricordi che magari non hanno il proiettore, riescono anche a fare sì che queste cose diventino un lascito familiare, perché è per gli autori, per gli eredi, per tutti coloro che appunto ne sono gli eredi del diritto d'autore. Quali sono i criteri in base ai quali scegliete il materiale per archiviarlo? Allora, scegliamo il materiale essenzialmente rispetto alla qualità del materiale, sì. Non al tema. Sì. Perché i temi sono tutti interessanti quando si fa un film, quindi il nostro archivio ha immagini di tutte le parti del mondo, vacanze dalla Sicilia alla Colombia, al Messico, all'Africa, all'India. Essenzialmente è se le immagini sono a fuoco, se la pellicola non è troppo rovinata da non vedere, ma altrimenti va tutto bene. Certo, non prendiamo pellicole da vendere che siano, cioè non pellicole, ma ricordo bene, i file che si trovano dalle pellicole, rimangono di proprietà delle famiglie. Non parliamo di immagini che siano tutte fuori fuoco o che non si vedano, ecco. E che tipi di supporto? Tutte le pellicole, tutte e le pellicole. Anche diciamo la base dell'archivio sono le pellicole, quindi 8 x 8, 9,5, 16 mm. Abbiamo anche una parte fotografica, ma sulla parte fotografica è molto più, diciamo, selettiva. Abbiamo immagini antichissime, stereografi, lastre su vetro, daguerrotipi, fino diciamo all'epoca della guerra. Ecco, per darci un'idea della consistenza di questo archivio, che mole, quanto materiale avete messo da parte? Abbiamo messo da parte circa 18.000 pellicole. Belle cifre, insomma. Sì, ma devo dire, questo è un lavoro che chiunque, dal nostro archivio sono passati tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a fare lo stage, e quando ti ci incappi alla fine ti appassiona, perché comunque ritrovare gli eredi, fargli vedere quello che magari parenti che non avevano mai visto, risentire le voci su queste bobine con questo piccolo magnetico minuscolo rovinato. Insomma, è una missione che diventa anche emotiva. Senti Cecilia, allora ricordiamo gli appuntamenti. La terza edizione di questo festival, Il Gusto della Memoria, sarà a Roma e a Bracciano il 27 e 28 settembre, però diamo nuovamente gli estremi per la partecipazione al bando. Allora, vi ricordo intanto che il festival quest'anno sarà alla Sala Trevi, quindi alla sala della Cineteca Nazionale, sì. E anche sul barcone di Bracciano, che collega i tre paesi, Bracciano, Anguillara e Trevignano, insomma una cosa romantica in parallelo al festival. Per partecipare bisogna iscriversi e scaricare il bando, e l'iscrizione basta cercare Il Gusto della Memoria 2014, e se mi scrivete anche Webnode vi viene subito, ma comunque se si scrive su Google Il Gusto della Memoria 2014 qualche cosa vi arriverà, e lì scaricate il bando, scrivete, mandate una mail e riceverete i minori gratuitamente il codice per poter fare il film. I maggiorenni, per partecipare al festival, devono fare la tessera dell'associazione Come Eravamo, che siamo noi che organizziamo il festival, che viene 5 euro, e permette di avere per illimitatamente nel tempo i codici per poter visionare e scaricare le immagini. Benissimo. Questo lo spiego perché dobbiamo sapere chi è che le visiona, per il semplice fatto che comunque sono immagini private, familiari, sì. Non sono messe lì per poter essere scaricate e parodiate su YouTube. Diciamo, le custodiamo con cura, ecco. Certo, certo. Cecilia, io ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente in vista del festival. Un abbraccio. Venite a vederlo e partecipate, che ci interessa come bene. Fate film. Bene. Arrivederci. Ciao, grazie. Cecilia. Ciao. Ciao. Cecilia Pagliarani, direttrice della terza edizione del festival Il Gusto della Memoria, in merito all'apertura del bando di iscrizione. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Alberto Fasulo, regista del film Tir, in uscita in sala oggi giovedì 27 febbraio dopo la vittoria al Festival del Cinema di Roma. Ci sei, Alberto? Sì, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Grazie. Noi ci eravamo sentiti per Rumore Bianco, un tuo documentario un po' di tempo fa. Intanto come va? Pronto? Sì, come va? Pronto? Alberto? Ci sei? Ci senti? Sì, vi sento. Come va? Sì. Beh, non posso dire che va gonfio e beve perché non ho fatto un film su una barca, su una nave, ma mi sembra che ha tutta birra perché questo Tir, insomma, sta correndo, mi sta portando in giro per tutta Italia, per tutto il mondo, per cui mi sembra anche troppo bene. Allora, andiamo alle origini di questo lavoro, Alberto. Raccontaci un po' com'è nato. Beh, è nato quando ho individuato nella figura del camionista una metafora importante e giusta per raccontare il mondo, comunque la società moderna, dove ci viene richiesta sempre più dislocazione per lavorare, per mantenere le nostre famiglie, i nostri affetti, e quindi mi è sembrato che il camionista potesse avere molto da dire e da raccontare rispetto a questa condizione esistenziale. La caratteristica che subito mi viene in mente, anzi le caratteristiche che subito mi vengono in mente in merito a questo lavoro è una grossa intensità, spesso cioè ti prende grossa parte della giornata ma anche della vita, e non è facile reggere questo ritmo, non è facile andare avanti per anni facendo questo lavoro, e poi soprattutto la distanza dal proprio quotidiano e dai propri affetti. È assolutamente esatto, questa è la condizione del camionista, che in fondo è sempre stata così, ma negli ultimi 15 anni, diciamo che con la caduta dei confini europei, questo lavoro è diventato ancora più stressante, perché mentre prima avevano comunque dei confini, dei tempi morti su cui dove in qualche modo respirare, avere un contatto con i posti che incontravano, oggi purtroppo sono diventati dei corrieri a lunga distanza, per cui sono rinchiusi in questa cabina, seguiti da un satellitare che gli dà gli ordini, e per 4 settimane insomma lavorano per poter tornare a casa una. Pronto? Sì, ecco, mi senti? Sì, ti sento. Senti, Alberto, si tratta di un ibrido, perché il protagonista del tuo film è in effetti un attore, però il tutto è girato a mo' di documentario. Ecco, ci racconti un po' questa sintesi? Beh, no, insomma, ho fatto una scelta di campo, che invece di far interpretare, far recitare una persona reale, come in molti documentari succede, ho sentito che di dover fare un passo in avanti e di essere ancora più sincero con lo spettatore e far interpretare un attore professionista invece il ruolo di regista. Questo ovviamente facendo un percorso di ricerca, di studio, e facendogli prendere la patente, facendogli capire esattamente che cosa vuol dire fare il camionista, e quindi l'ho fatto assumere da una ditta di trasporto dove io ho sviluppato per molti anni il progetto, e dentro questo contesto, dentro al periodo che Branco ha lavorato per questa azienda, abbiamo interpretato questa storia che avevo incontrato negli anni di ricerca di un professore dell'est, appunto, che lascia il suo lavoro, lascia la famiglia per avere uno stipendio maggiore, che è una storia abbastanza all'ordine del giorno. Basta pensare a tutti gli esodati che si devono reinventare in qualche modo a 50-55 anni. Sì, sì. Alberto, che lasso di tempo ti ha ti ha impegnato questa realizzazione di questo lavoro, e poi che realtà hai scoperto anche rispetto alla condizione di partenza che pensavi rispetto alla realizzazione, e cosa hai scoperto di differente? Beh, diciamo che all'inizio non sapevo, non ero a conoscenza di questa immigrazione delle persone dell'est, di camionisti dell'est, di lavoratori dell'est che in qualche modo venissero impiegati nelle nostre aziende italiane. Se così ancora oggi ha senso parlarne, perché ormai tutte le aziende, la maggior parte delle aziende italiane comunque sono dislocate con le sedi amministrative all'est per questioni fiscali e sì, assicurativi e via dicendo. È un fenomeno in atto ormai da 10 anni che negli ultimi anni, visto la crisi economica, ha avuto una forte accelerazione. Quindi all'inizio ero convinto, pensavo di fare un film di raccontare la storia di un camionista italiano. Poi mi sono reso conto invece che era molto più interessante invece raccontare questo momento storico sia dell'autotrasportatore italiano, ma anche in qualche modo del lavoratore di per sé, che viene messo sempre in condizioni sempre più, come dire, ristrette. Mm-hmm. E allora quello che forse ho scoperto che da 15 anni esiste un'immigrazione degli uomini dell'est che invece di andare a lavorare su dei territori, su delle aziende impiantate, quindi avere uno scambio anche culturale, invece queste persone salgono in delle cabine di incamere e senza radicamento lavorano per anni e anni senza avere nessun rapporto con la nazione per cui in realtà poi lavorano. Ecco, quali sono secondo te gli aspetti positivi di questa esperienza e anche tutto il lato peggiore di un percorso come questo? Beh, gli aspetti positivi mi sembra che posso dire che comunque c'è una grande umanità anche in questo mondo che, visto dal di fuori, invece appare sempre come ostico, duro, no? Un camion se ci sorpassa in autostrada sembra che faccia la più grande scorrettezza di questo mondo, oppure se fa un incidente un camionista allora sembra che no, abbia fatto chissà quale danno al sistema. Invece è un sistema purtroppo che invece viene molto sorretto da questo lavoratore che giorno e notte lavora per mantenere in piedi un sistema che ormai è fatto molto sul last minute, dobbiamo avere tutto e subito, e quindi queste migliaia, se non milioni di camionisti che girano per l'Europa tengono in piedi poi questo nostro sistema che ci piace o non ci piace, ma comunque che conviviamo. E l'aspetto forse peggiore è proprio questo, ecco, che in effetti soffrono, questo ambiente soffre di un grande stereotipo, e forse il film va anche un po' a cercare di toccare quello stereotipo invece di mostrare che in realtà sono persone come noi che cercano di arrivare a fine mese come noi, che comunque vorrebbero la vita semplice come noi, e quindi c'è una vicinanza che almeno per me è stata molto importante nella realizzazione del film, e mi sembra dalle prime anteprime che abbiamo fatto che il pubblico in effetti si accorge di tutto questo, ecco. Alberto, a Venezia aveva vinto Sacro Gra, a Roma hai vinto tu con il tuo lavoro, curiosamente tra l'altro due film che parlano di strada, finalmente un riconoscimento per questo mondo importante del documentario che noi stiamo attenzionando da svariato tempo, ma che forse ora viene riconosciuto anche a un livello più allargato. Sì, beh, ripeto, Tir non è proprio un documentario, sì, quindi è giusto parlare di film, in qualche modo di finzione, anche certo, se è una finzione di ricerca e via dicendo. Però in effetti hanno vinto due film italiani, due film a basso budget e hanno avuto il massimo riconoscimento nei due festival più importanti d'Italia. Allora qui forse è bello pensare che magari forse qualcosa sta cambiando nel sistema, e mi auguro che Tyr come Sacro Graal riuscirà ad essere visto dal grande pubblico nelle sale. Poi sai, io credo che il pubblico abbia il diritto di vedere anche i progetti, la diversificazione di un film di molto cinema diverso. Insomma, in Italia il documentario, comunque il documentario da dove io sono partito per realizzare anche Tyr, no? E anche Rumore Bianco, insomma, ha una tradizione lontana, partendo da De Seta a Piavoli, no? Arrivando a documentaristi più vicini a noi, ma comunque insomma è una tradizione importante del cinema del reale, ecco, che oggi venga riconosciuto nei maggiori festival italiani, insomma questo è un sogno credo per tutti noi che abbiamo incominciato così. Alberto, oggi, da oggi nelle sale, in quante copie esce Tyr? Esce in 13 copie, e pensando comunque che insomma adesso vediamo come andrà in queste 13 sale, mi auguro che possano crescere, mi auguro, perché insomma ricevo molte richieste, molte mail di apprezzamento e di richieste di dove poter vedere questo film, per cui insomma speriamo che questo Tyr continui, ecco, a macinare chilometri e essere presente in tutta Italia. Bene, ce l'auguriamo anche noi. Alberto, io t'abbraccio, a risentirci presto. Grazie a tutti, un abbraccio forte. Ciao. Alberto Fasulo, regista del film Tyr, in uscita in sala oggi giovedì 27 febbraio. La scaletta della trasmissione di oggi la trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e anche su Facebook sempre a nome Visionari. Salvatore Specchia, regista del documentario SX, tra le parole e i volti della sinistra italiana, che sarà presentato in anteprima nazionale a Melpignano, in provincia di Lecce, e luogo d'origine, se non sbaglio, il 2 marzo prossimo. E Salvatore, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie dell'invito. Allora, questa avventura come viene fuori? Dici un po', da dove sei partito? Ma questa, la storia del lavoro che ho realizzato, è una storia strana, anomala e anche un po' fortunata. E l'idea è nata era all'incirca aprile-maggio dell'anno scorso, e quando era forte la voglia di non rassegnarmi, perché mi sentivo espropriato di un qualcosa che sentivo anche mio, che risuonava malamente quando veniva pronunciato da chi ne aveva letto solo la definizione sul dizionario, ovviamente parlo della parola sinistra, e i soliti tranelli, le solite domande, e quindi ho voluto provare ad intercettare, a mostrare quello che vivevo nella mia quotidianità di attivista. Sì. Ho deciso di scrivere a delle persone e alla fine ho deciso di partire dalle parole, perché penso che le parole siano importanti e bisogna iniziare ad ascoltarle con attenzione, perché se una pecca molto importante della sinistra è che nel suo lungo viaggio ha smarrito non solo le parole ma anche le voci e le storie di chi l'ha attraversata. Le parole, perché penso che per costruire una moltitudine bisogna imparare a rispettare l'individualità, ad ascoltare le storie e le parole che queste persone portano dentro un percorso. Sì. E come ti sei mosso partendo da questi presupposti? Era un po' spiazzato all'inizio, perché sinceramente non sapevo da dove partire, eh. Sì. E poi ho iniziato a scrivere a delle persone, ho provato ad intercettare non solo i militanti o gli attivisti ma anche personaggi dello spettacolo, giornalisti, parlamentari, provando ad intrecciare le parole che caratterizzano i singoli percorsi, le individualità. Mm-hmm. Tra gli altri ho intervistato Corradino Mineo, la mamma di Federico Aldrovandi, i genitori di Giuliani, i ragazzi del Teatro Valle occupato, il comandante Diavolo, il comandante Atos, e tanti militanti e tante altre donne e tanti altri uomini. Senti, in giro per l'Italia, dalla provincia alla città, da nord a sud? Sì, io sono partito il 14 maggio, io sono studente fuori sede a Bologna, quindi il mio viaggio è partito da Bologna. E la prima intervista l'ho fatta il 14 maggio del 2013, e dopo aver percorso 4.000 chilometri tra Milano, Genova, Correggio, Carpi, Roma, usando qualsiasi mezzo di trasporto, sono arrivato al 30 giugno con 35 ore di girato. E lì è iniziato un altro viaggio, e approfitto per ringraziare i ragazzi dell'Amaro che hanno curato la produzione e la post-produzione video, e i grafici Francesco e Sara, perché hanno voluto scommettere con me su questo lavoro. Praticamente siamo riusciti a realizzare questa roba qui, un libro e un documentario, con i pochi mezzi che avevamo a disposizione. Io ho iniziato questo viaggio con una telecamera prestata, con qualche soldo per pagarmi i biglietti dei regionali e un'idea in tasca. L'età dei protagonisti del tuo lavoro, l'età è un po' trasversale, e poi insomma più o meno quante persone hai intercettato? Allora, l'età delle persone che hanno partecipato è una forbice molto larga, partiamo da lavoratori o studenti di 18 anni al comandante Diavolo o al comandante Atos, che sono dei comandanti di brigata della resistenza che hanno 90 anni. E sono riuscito tra il libro e DVD c'è l'intervento di almeno una quarantina di persone. Senti, che mosaico ne è venuto fuori? Un mosaico, cioè quello che ne viene fuori secondo me è un contrasto molto forte fra chi vive le istituzioni e chi sta fuori. C'è una parola, un filo conduttore, sicuramente il conflitto. Sì. Perché non si può prescindere da questo, e dal mio punto di vista, per arrivare a concretizzare quella che è la nostra alternativa, il nostro mondo migliore, non bisogna necessariamente passare dalla... Pronto? Scusatemi. Sono un po' emozionato. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Però per esempio, ecco, sai insomma un po' la storia di questa radio, che è una delle voci dell'auto-organizzazione. In questo senso volevo chiederti se hai trovato un terreno fertile tra la gente rispetto alla capacità proprio di auto-organizzarsi e fare da sé. Sì, io penso che si possa dire, cioè io penso che questo lavoro sia un racconto collettivo. Sì. È un racconto collettivo che parte dal basso, perché oltre alle singole storie sono riuscito a intercettare anche le storie di collettivi o comunque di gruppi organizzati. Sì. Ad esempio il Teatro Valle Occupato, che partendo dall'occupazione di un posto che non solo veniva gestito in malo modo, ma non si dava a quel posto la visibilità che meritava, e quello come tanti altri posti, il Teatro Pinelli a Messina e tanti altri. E io credo che quello che portano avanti i ragazzi sempre del Teatro Valle sul concetto di bene comune, cioè riscrivere, cioè porre una rottura nel linguaggio comune tra pubblico, ad esempio, che vengono definite cose tra pubblico e privato, c'è qualcosa che va oltre, c'è qualcosa che appartiene a tutti, come può essere la cultura, gli spazi in cui la cultura viene creata e poi viene rappresentata. Quindi comunque la cultura rappresenta un mezzo importante per lo stravolgimento dell'esistente, diciamo così. Credo assolutamente di sì, e credo che sia uno dei pochi mezzi che ci sono rimasti a disposizione o che ci hanno lasciato a disposizione per emanciparci e per provare a costruire una narrazione diversa. Senti Salvatore, che percorso farai adesso con questo tuo lavoro? Questo è un lavoro autoprodotto indipendente, e proverò a muovermi con i contatti. Sono in fase, sto chiudendo delle date di presentazione un po' in giro per l'Italia, da Milano a Roma, al Teatro Valle prossimamente, e vediamo un po', mi sto facendo aiutare dai ragazzi, sia da chi ha partecipato, ma anche dalle amicizie e dai compagni. Senti, hai dei riferimenti internet proprio per il documentario? Sì, il documentario è disponibile sia in copia digitale che in copia cartacea su www.sxblog.info. Ok, sxblog.info. E a questo punto spero che ci sarà presto una occasione romana per parlarne, per presentarlo, e in quell'occasione magari ci risentiamo. Ti ringrazio tanto, grazie mille, grazie per dell'opportunità. Ciao Salvatore, a presto. Ciao, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Salvatore Specchia, regista del documentario SX, tra le parole e i volti della sinistra italiana. La prima proiezione a Melpignano, in provincia di Lecce, il 2 marzo. Bene, allora, siamo in collegamento con Gianluca Guzzo di My Movies. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Con te per parlare della notte degli Oscar che voi state preparando attraverso, per esempio, un'iniziativa lodevole, ossia la proiezione di 4 documentari, uno vincitore dell'Oscar lo scorso anno e 3 lavori importanti per quanto riguarda quest'arco cinematografico di quest'anno, insomma. Sì, esattamente, proprio così. Abbiamo due nominati agli Oscar 2014, The Act of Killing e The Square Inside the Revolution. Sono i due film candidati agli Oscar, insomma, aspettiamo tutti domenica per capire quale vincerà. Magari tutti speriamo che almeno uno dei due vinca, sono dei film straordinari. E poi sì, come giustamente dicevi, avremo il film Sugarman, che ha vinto la scorsa edizione degli Oscar nella sezione documentari, e poi The Guest Speaker, che è un altro film che è stato candidato agli Oscar sempre nella precedente edizione. Partiamo domenica pomeriggio, praticamente uno dietro l'altro ci saranno i film e si seguirà insieme tutta questa maratona. Come nasce questa iniziativa? In particolare, voi non siete nuovi allo streaming, però anche questa attenzione al documentario in particolare mi sembra molto importante. Sì, abbiamo la nostra storia di My Movies Live inizia proprio con un documentario. Vi ricordate La Bocca del Lupo, che vinse a Torino e che aveva bisogno di una forte comunicazione per mandare la gente al cinema, perché il documentario, parliamo di 3 anni fa, oggi ci è stata tantissima soddisfazione, ci sentiamo anche un po' attori di questo successo. Abbiamo visto Sacro Gra vincere a Venezia e Tir vincere a Roma nello stesso anno. L'attenzione per i documentari perché crediamo che sia un'opera non abbastanza riconosciuta, con poca possibilità di visibilità, poca possibilità di visione, e quindi noi attraverso il nostro strumento cerchiamo di dare sfogo a queste bellissime opere, a queste straordinarie pellicole per permettere poi agli utenti di rivederlo, di accedere, di conoscere. Certo. questo cinema. Gianluca, facciamo un passo indietro, racconta anche a chi ci ascolta la realtà di My Movies. Sì, My Movies nasce nel 2000, ormai siamo quasi vicino al quindicesimo anno di vita. Nasce nel 2000 con l'idea di digitalizzare tutti i film dal 1895 a oggi, digitalizzare le recensioni. Partivamo quindi dal dizionario Farinotti, così siamo partiti nel 2000 e abbiamo digitalizzato le schede dei film e le abbiamo messe online alla portata di tutti, per permettere poi delle ricerche profonde, per poter permettere quelle ricerche che una volta si facevano appunto dai dizionari, poi da CD-ROM e poi da internet. Era il 2000, poi siamo cresciuti, per cui dopo il dizionario Farinoso abbiamo inserito il dizionario Morandini e poi abbiamo creato la nostra redazione, che via via inseriva tutte le novità delle uscite nelle sale cinematografiche. Così parte My Movies. Da allora poi di tempo ne è passato tanto. Oggi My Movies è una realtà molto importante, abbiamo circa 7 milioni di utenti unici al mese, 400.000 al giorno ci seguono, e siamo molto molto molto contenti di questa realtà. Oggi un nuovo obiettivo, che è quello di chiudere il cerchio, quindi non solamente darti la possibilità di poter leggere delle recensioni, quindi per orientarti alla visione dei film, ma anche la possibilità di poterli vedere e magari appunto con il nostro metodo molto simpatico insieme ad altri, quindi condividere una visione insieme ad altri in un modo assolutamente social. Senti, per allora, le recensioni di quanti lavori avete a disposizione? Abbiamo circa 65.000 schede di film recensioni. Ok. Annualmente scriviamo dalle 1000 alle 1500 recensioni. Copriamo chiaramente tutte le uscite nelle sale cinematografiche. Come sai, le uscite nelle sale cinematografiche sono circa 350-360 all'anno, e in più facciamo tutte le coperture dei festival, quindi i festival più importanti italiani, chiaramente, poi Berlino, Cannes. Ma anche l'Asia, noi siamo partner del Festival di Cinema Asiatico, di Busan Film Festival in Corea del Sud, e quindi chiaramente queste 300 poi diventano 1000 e oltre, proprio perché poi andiamo a fare una copertura di schede di film e di recensioni di alcuni film che a volte non riescono ad avere una distribuzione in Italia e che rimangono purtroppo invisibili. E anche in questo il nostro impegno, per cercare di portare delle opere, dei film che non riescono ad avere una distribuzione in Italia attraverso la nostra piattaforma streaming. Ecco, proprio a proposito dello streaming, quali sono i criteri di scelta delle opere? In genere scegliamo dei film che ci hanno colpito molto ai festival, quindi sono dei film che hanno magari vinto dei riconoscimenti, che hanno avuto dei riconoscimenti all'estero, che hanno vinto dei premi e che però non sono così forti. Comunque, sai, la produzione cinematografica nel mondo è importante, quindi chiaramente non si riesce ad importare tutto, quindi ci sono molte opere belle, importanti, che non riescono ad avere visibilità. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo, quindi facciamo una selezione di circa 15 film al mese, questo su My Movies Live, e importiamo queste opere che altrimenti rimarrebbero quasi invisibili. Un altro lavoro importante lo facciamo direttamente con i programmer dei festival. Come sai, abbiamo fatto questa bellissima partnership con il Festival di Torino, poi con il Festival dei Popoli a Firenze, e con tanti festival ci stiamo attivando per lavorare insieme a loro per l'acquisizione di alcuni film. Una delle cose più belle che insomma possono accadere in questo lavoro è che il film, una volta che è su My Movies, venga poi comprato dal distributore italiano. È successo in più casi, dove il film che abbiamo selezionato insieme ai programmer, quindi ai direttori artistici dei festival, poi di creare interesse in Italia, essere notato ed essere acquisito. E questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché poi è uno dei nostri obiettivi, cercare di portare più possibile film in Italia. In chiusura, Gianluca, ricordiamo l'appuntamento per la notte degli Oscar, i lavori che presenterete in streaming? Sì, partiamo alle 5. Ricordiamo che è assolutamente gratuito, ci sono 1000 posti disponibili. Anzi, in questo momento vediamo, perché intanto qualcuno ha preso qualche posto, 899. Abbiamo ancora 3 giorni, 2 ore e 20 minuti per prenotare il proprio posto. Si parte alle 17 con Sugarman, domenica pomeriggio, si va avanti con Gatekeepers, e poi The Act of Killing, e chiudiamo con l'inedito The Square, Inside the Revolution, che è uno dei film più interessanti. Considerate che il film è ancora nelle sale cinematografiche, noi riusciamo a darlo per i primi 1000 che prenderanno il posto gratuitamente. Quest'ultimo titolo inizierà alle 22, quindi dalla maratona sarà come ultimo film e partirà alle 22, ma anche tutti gli altri sono film che abbiamo già dato su MyMovies, ma che meritano una visione per chi non l'avesse ancora visto. Gianluca, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie tante, un abbraccio a te. Ciao. Gianluca Aguzzo di MyMovies. Giona Nazzaro per parlare con lui della rassegna Fermento Georgiano al Teatro Valle Occupato a partire da oggi, giovedì 27 febbraio, fino a domenica 2 marzo. Giona, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per l'invito, Federico. Sono anni che ci vediamo alle proiezioni stampa, però questo credo che sia proprio la tua prima presenza nella trasmissione Visionari. Sì, è il mio debutto, chiamiamolo così. Allora, se non sbaglio, tu sarai presente presenterai materialmente due delle serate, delle quattro serate della rassegna, giusto? Sì, stasera presenterò il film In Bloom di Nana Ekvashmili e Simon Gross, e poi presenterò domenica il film, domenica 2 marzo, The Machine That Makes Everything Disappear di Tinatin Gurkhiani. Allora, i film per tutte e quattro le sere sono previsti per le ore 21. Si tratta di quattro titoli. Facciamo un po' una panoramica, Giona, su questo Fermento Georgiano. Sì, senz'altro, si tratta di un cinema che ovviamente dopo l'implosione dell'ex Unione Sovietica, le varie repubbliche che la formavano sono ritornate a fare un cinema connotato dalla ricerca delle proprie radici e secondo strategie e modalità assolutamente originali. Ricordiamo per esempio la retrospettiva che il Festival dei Popoli dedicò anni fa al cinema delle Repubbliche Baltiche, intitolata appunto Una Diagonale Baltica. Venendo nello specifico alla rassegna curata da Carlo Interman in collaborazione con le istituzioni culturali georgiane, c'è una interessante compresenza sia di documentari che di film di finzione. Ed è interessante vedere come nel cinema georgiano sopravvivano in forme assolutamente originali tracce di quello che era il cinema sovietico prima della normalizzazione ideologica subita dai vari ministri della cultura che si sono succeduti fino ad arrivare allo stalinismo. Quindi è un'opportunità questa che offre il Teatro Valle Occupato insieme alle istituzioni culturali georgiane di andare incontro a una cinematografia che è davvero in pieno fermento. Oh, tu sei un selezionatore festivaliero e in qualità proprio di questa tua attività volevo chiederti, non mi sembra che della Georgia o comunque di tutta l'area arrivino nelle nostre sale diversi film, mi sembra piuttosto una rarità, quindi ancora di più mi sembra una buona occasione per vedere qualcosa che da noi non è possibile vedere. Ovviamente sappiamo bene che la soglia di sbarramento che le sale commerciali offrono al cinema che non sia quello delle grandi produzioni è altissima, lo sappiamo, ci siamo detti mille volte, ed è anche altrettanto vero che le cose che vengono viste nei festival, anche nei festival italiani, raramente poi varcano la soglia della cornice festivaliera. In questa rassegna che è organizzata dal Valle e dalle istituzioni georgiane, da Carlo Interman, è interessante perché spalanca la classica finestra su un mondo e una cinematografia che raramente ci viene offerta in questa sua ricchezza, in questa sua varietà. Tant'è vero che, per esempio, ricordiamo pure gli aspetti più, come dire, ludici della rassegna. Stasera alle 19 ci sarà un banchetto, una cosiddetta supra, il tradizionale banchetto georgiano, un momento di convivialità nella quale si potranno, prima della proiezione di In Bloom, gustare specialità e cibi georgiani. Domenica sera, se non mi sbaglio, ci sarà una corale georgiana che prima della proiezione ci permetterà di entrare brevemente, per quanto brevemente, in contatto con la tradizione musicale georgiana. Questa iniziativa del Valle, che ovviamente è un'iniziativa benemerita, purtroppo Roma, che è comunque una capitale europea, sono iniziative rarissime, sono pochi gli istituti di cultura che fanno un'attività culturale continuativa. Ricordiamo en passant l'istituto culturale giapponese, da sempre mecca di pellegrinaggi cinefili da parte degli spettatori più motivati, e quindi sarebbe il caso che le persone che, insoddisfatte dell'offerta culturale esistente, si facessero vedere al Valle, intanto per sostenere l'iniziativa del Valle e poi per andare incontro a un cinema che non è proprio il cinema che si vede tutti i giorni. Oltretutto è vero che Otar Joseliani è un maestro, però ricadiamo nella casistica dove un'intera cinematografia viene sussunta da un unico nome. Faccio un esempio: la Finlandia Kaurismäki, il Portogallo De Oliveira, e in questo modo, nonostante la grandezza dei nomi evocati, in questo modo si passa sempre un colpo di spugna piuttosto sbrigativo su tutto quanto invece si muove al di là dell'orizzonte di questi nomi. Sì, anche perché la conoscenza di Josseliani è stata facilitata per quanto riguarda il nostro paese, ma non solo, dal fatto che comunque abbia lavorato in Francia. E proprio rispetto invece alla cinematografia georgiana, a questo fermento di cui si parlava, Giona, non so se hai avuto modo di vedere tutti i lavori, ma volevo chiederti quali sono le caratteristiche che hai riscontrato. Ovviamente è sempre un po' rischioso tentare di parlare per caratteristiche dominanti rispetto alle singole scenografie. Al netto di questa considerazione, diciamo che c'è una fortissima attenzione al reale, però un reale che viene sempre rielaborato attraverso una chiave fantastica, un fantastico che affonda le proprie radici nella tradizione e nella cultura e nella lingua, nel suono della lingua di quei posti, per cui è un fantastico assolutamente originale. Basti pensare per esempio appunto a The Machine That Makes Everything Disappear di Tinatin Gurkhiani, dove il dispositivo stesso del cinema, nonostante per la più parte si soffermi frontalmente a interrogare delle persone, evochi una sorta di alterità, di dimensione supplementare, ed è una caratteristica di un cinema che con il reale ha sempre ingaggiato un corpo a corpo fruttuoso, pur rifiutandosi di aderire ai presupposti ideologici dell'estetica sovietica. Non è un caso che cineasti come Joseliani, ma lo stesso Tarkovsky, o per giungere sino a un nome recentissimo come German, abbiano sempre avuto dei forti conflitti con l'estetica sovietica. E la caratteristica del cinema georgiano è proprio questa sua sognante matrice realistica e, per semplificare, fiabesca, e semplificata anche dai migliori film di Joseliani, dove non si tratta mai di gente che vola o che fa cose, ma che sono sempre calati in un contesto come avulso dal fluire normale, sì, del tempo. Sì, sì, sì. Allora, Jonah, ricordiamo la rassegna Fermento Georgiano da oggi, giovedì 27, fino a domenica 2 marzo, a partire dalle 19, nelle varie giornate, tra cene e degustazioni di vini, fino al coro di musica georgiana, per arrivare alle 21 con la proiezione di questi quattro film. Stasera ci sarai tu e ci vediamo lì, Jonah. Assolutamente, Federico. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a voi, grazie per l'invito. Ciao, ciao. Ciao. Critico Jonah Nazzaro per la rassegna Fermento Georgiano al Teatro Valle Occupato. Avremmo dovuto sentire anche Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, per l'uscita in sala del film restaurato La Grande Illusione, che esce in sala a partire da lunedì 3 marzo. Non siamo riusciti a contattarlo. A questo punto ci salutiamo, magari dandoci appuntamento per La Grande Illusione a giovedì prossimo, sempre qui a Visionari. Quindi l'appuntamento è per giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, anche sulla pagina Facebook. Se volete comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.